La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Le notizie di oggi: via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge per il rilancio dell'occupazione a partire da quella giovanile. Il governo ha deciso anche il rinvio di 3 mesi dell'aumento dal 21 al 22% dell'IVA che sarebbe scattato dal 1 luglio. Ha approvato anche il decreto legge sull'emergenza carceri. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Priorità però in questi minuti alla Camera per la discussione delle mozioni sull'F-35, lo ricorderete, il cacciabombardiere NATO che vede il coinvolgimento anche a livello produttivo della stessa Italia. La decisione è stata presa qui a Montecitorio all'unanimità votando l'inversione dell'ordine dei lavori. La decisione arriva dopo il varo della mozione della maggioranza che sarà discussa proprio questo pomeriggio. La mozione che cosa dice? Impegna il governo relativamente al programma F-35 a non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito. La mozione è a firma dei capigruppo di maggioranza, quindi di questo governo di larghe intese, nello specifico Speranza, Brunetta, Dell'Ai, Pisicchio, Formisano. Ma sentiamo allora la posizione ufficiale del governo nelle parole del ministro della Difesa Mario Mauro. Quindi non c'è nessun velivolo dell'aeronautica militare che si aggiunge a quelli esistenti nell'ottica di un'esibizione muscolare. C'è invece la necessità inderogabile per far fronte ai problemi che sono i problemi della difesa del Paese e delle alleanze stringenti nel settore della politica estera di portare a compimento quella che è la revisione del nostro strumento militare. All'interno di questo giudizio, che è un giudizio già largamente condiviso e a più riprese da questo Parlamento, c'è la messa a punto di quel percorso che ha portato a identificare l'F-35. Oggi le obiezioni sono sostanzialmente di due tipi. Primo, l'F-35 è un aereo cattivo, cioè un aereo che per natura e per dotazione di armamento si opporrebbe ai nostri presupposti costituzionali. La verità che seppur tecnologicamente di gran lunga inferiori, gli AMX, i Tornado e gli AV-8 sono aerei della stessa tipologia, sono dei cacciabombardieri ed esercitavano quel ruolo che un domani saranno chiamati a svolgere gli F-35. Non è cattivo l'aereo in sé, è buona invece la democrazia e il Parlamento che attraverso il suo rigoroso controllo consente in ogni circostanza della storia di poter disporre dell'uso di questi mezzi per conseguire la difesa della pace. La seconda obiezione, l'F-35 è un cattivo aereo, vale a dire un aereo che non funziona o che comunque non funzionerà, ma l'F-35 è un programma, è il frutto di quel programma che abbiamo cominciato a seguire nel 98 e che nel suo sviluppo, come nel caso di programmi e di velivoli analoghi, arriverà alla fase operativa avendo risolto, come sta risolvendo e dimostrando di risolvere attraverso procedure assolutamente trasparenti ed esposti in un ordinamento come quello anche statunitense all'iniziativa di class action, una e semplice e necessaria prerogativa, il fatto cioè di essere al massimo dell'efficienza nel momento in cui viene utilizzato. Queste dunque le parole del ministro della difesa Mauro, laddove Mauro difende l'F-35 da una parte come deterrente internazionale, favorirebbe la pace internazionale, dall'altra difende proprio la macchina in se stessa, dice non è una macchina fatta male ancora a livello di prova, quindi quando sarà terminato il periodo sarà una macchina efficiente. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, vi ricordo il piano lavoro, il rinvio dell'IVA, vi rinvio al focus economia. Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri il decreto legge sull'emergenza carceri, lavori socialmente utili anche per i recidivi. Sentiamo allora il Premier Enrico Letta. Il Consiglio dei Ministri ha anche varato il decreto legge di disposizione urgente in materia di esecuzione della pena un intervento molto significativo, perché l'arrivo dell'estate stava creando una condizione in cui la situazione assolutamente di emergenza carceraria nella quale il nostro paese sta vivendo avrebbe comportato che quelle accuse che da tutti gli organi internazionali che si occupano di questi temi piovono all'Italia rispetto alla nostra incapacità di gestire dignitosamente la vita dei detenuti nelle carceri, noi cominciamo a dare una risposta, credo che sia una risposta di dignità di un paese che non può essere accusato su questi temi, un dovere morale rispetto al quale anche qui ringrazio molto Anna Maria Cancellieri per il lavoro che ha fatto per arrivare oggi ad approvare questo provvedimento. Una risposta di dignità per il paese secondo il Premier Letta, secondo il Ministro della Giustizia Cancellieri, con il decreto 6.000 detenuti saranno presenti in meno in 2 anni nelle carceri, entro quindi il 2016-2015, per quel periodo vi saranno 10.000 posti letto in più, quindi da una parte uno svuota carceri, dall'altra un miglioramento delle stesse, della capienza delle stesse. Sentiamo allora il Ministro Cancellieri. Questi giorni ho sentito di tutto, ho letto di tutto dai giornali, non so poi sulla base di cosa abbiano stabilito che i mafiosi usciranno, che ci saranno, le nostre strade saranno invase da delinquenti. Ecco, il provvedimento di oggi non è assolutamente in questo senso, non è assolutamente un provvedimento svuota carceri inteso nel senso classico, ma un provvedimento che va alla filosofia del nuovo modo di intendere di espiare la pena. Queste le parole del Ministro Cancellieri. I vostri SMS, compriamo gli F-35, siamo invasi dal mare e da terra, tuteliamo i nostri confini prima che sia troppo tardi, scrive Giovanni. Gli altri SMS hanno un taglio nettamente più economico per IMU ed IVA, per toglierle basterebbe un'adeguata lotta all'evasione, scrive un nostro ascoltatore. Tassare le sigarette elettroniche le rende meno dannose, si chiede un altro ascoltatore. Ma veniamo agli equilibri del governo. Un governo che sembra uscito rinsaldato dal Consiglio dei Ministri di oggi. Ieri faccia a faccia Letta Berlusconi, sul tavolo dell'incontro le priorità del Popolo della Libertà, soprattutto quindi quelle del fisco, ma anche la giustizia. Sul primo tema oggi il Cavaliere sembrerebbe aver avuto soddisfazione con il rinvio dell'aumento dell'IVA. Sentiamo allora un soddisfatto Alfano, vice premier, intervenuto in conferenza stampa. Esprimo la mia soddisfazione per l'esito del Consiglio dei Ministri di oggi. Altri 2 gol del governo su tasse e lavoro. Il 1° luglio doveva scattare l'aumento dell'IVA. La notizia di oggi è che non scatterà. Prevengo l'obiezione, ma non scatta per 3 mesi. Il Parlamento potrà allungare questo termine, trovando ulteriori coperture e allungare questo termine. Intanto, il 1° luglio doveva aumentare una tassa, il 1° luglio la tassa non aumenta. E queste dunque le parole di Alfano. Tra ieri sera e questa mattina vi è stato un vero e proprio giallo proprio per il futuro del Popolo della Libertà, perché secondo alcuni le vicende giudiziarie di Berlusconi sembrerebbero prima o poi mettere fuori gioco il Cavaliere, di qui la voce circolata nella serata di ieri di una futura discesa in campo di Marina Berlusconi. La stessa ha fatto sapere con un comunicato che non se ne parla proprio, si tratta di un'ipotesi che non ha alcun fondamento, ha fatto sapere però Marina Berlusconi. Su quest'ipotesi è intervenuto però questa mattina a Radio 24 proprio il capogruppo del PDL Brunetta. Ma vede, a me non piacciono le dinastie, né quelle monarchiche né quelle democratiche. Se la dottoressa Marina Berlusconi vuole far politica e ne ha tutte le capacità, per quanto ne so, la faccia pure, ma non penso che sia plausibile un'investitura a carattere ereditario. Ecco, faccia politica, dimostri le sue capacità in politica e se vale acquisirà ruoli, funzioni, leadership proprie delle sue capacità. Ripeto, io amo il merito e in democrazia il merito è tutto: trasparenza, merito, leadership. Queste sono le sequenze che io seguo. Essere leader di un paese o leader di una nazione semplicemente perché si è nati da, penso sia un modo di selezionare la classe dirigente un po' obsoleto. Questa quindi l'idea di Brunetta su un'ipotesi di una discesa in campo di Marina Berlusconi, gli ultimi due vostri sms ricevuti, tasse, punto interrogativo, ma cominciamo a non spendere in armamenti, scrive Luce, gli F-35 a cosa servono? Un'ora di addestramento in volo costa 60.000 euro, scrive un nostro ascoltatore, non so se sia una valutazione verosimile o no, vi lascio comunque alle vostre riflessioni, la politica alla prova termina qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.